l'uomo o nello svolgimento di compiti o nello svolgimento, diciamo, delle sue operazioni più quotidiane. Scusi Pirni, impianti cocleari si intendono... Ce lo spieghi un attimo, no, perché... vuol dire che mettiamo macchine dentro la testa. Nell'orecchio, in questo caso. Mettiamo macchine dietro l'orecchio e queste macchine riescono a darci o a restituirci una forma di visione o a restituirci una forma di udito o anche, perché no, a costituire un ideale gate, diciamo così, in una prospettiva futura, un ideale punto di ingresso e di innesto per chip contenenti anche specifici contenuti di conoscenza, come dire, una sorta di enciclopedia portatile che potremmo portare con noi, o una sorta di, se mi passate il termine, una sorta di turbo che potremmo mettere, come dire, nella nostra capacità di elaborazione. Gli scenari sono notevoli. Sì, sono molto futuri e futuristici, ma ahimè però già iniziano a impattare sulle nostre vite e a modificare appunto il nostro sé, cioè il nostro modo di concepire noi stessi come soggetti naturali e, come dire, in parte anche artificiali, e il nostro e impattano sulla nostra capacità di modificare le nostre, per usare un termine tecnico, agende di socializzazione, cioè il come noi possiamo interrelarci con altri uomini e con altre donne, insomma, come possiamo essere esseri sociali. Pensiamo anche al tema, altro tema che sarà trattato, che è stato trattato, di fatto che sarà trattato ancora a due giorni, filosofico e robotica, qui ospitata dalla Scuola Superiore Sant'Anna, il tema della prostetica, cioè di uomini che sanno che portano, come dire, degli innesti biomeccatronici nelle loro braccia, nelle loro gambe, o che possono camminare o manipolare grazie ad essi. Persone subiscono una capacità, una rinnovata capacità di interagire col mondo, ma devono anche sperimentare una rinnovata, no, bisogno di ridefinire loro stessi e la loro capacità di interagire. Come questo impatta su loro come singoli, come può impattare sulla società, dove pensiamo a, appunto, robotica assistiva, quindi robotica che aiuta a svolgere compiti lavorativi, magari duri o di difficile fruibilità per l'uomo, o aiuta a svolgere compiti assistivi. Certo, insomma, sono davvero tante le, come dire, le situazioni nelle quali con le macchine avremo un rapporto estremamente intimo. E intimo è la parola giusta. Forse perché, la parola più corretta. Certo. Sì, perché noi stiamo sempre più vivendo, che ne siamo consapevoli o no, in simbiosi con un universo, appunto, biomeccatronico. Lentamente ma inesorabilmente, noi crediamo, stiamo modificando una serie di vocabolari concettuali, una serie di vocabolari giuridici, una serie di vocabolari etici. E, come dire, forse il filosofo deve essere colui che, insieme a tutti gli altri colleghi di tante altre discipline, prova a, come dire, alzare l'interrogativo e dire: è giusto tutto ciò? Quali implicazioni ha? Siamo consapevoli delle conseguenze? Siamo consapevoli dei rischi? Siamo consapevoli delle opportunità? O stiamo cercando di coglierle tutte? E soprattutto, dove sarebbe corretto fermarsi, o dove sarebbe corretto aumentare la nostra riflessione? Ultimo, ma non da ultimo, come possiamo regolamentare tutto ciò sotto un profilo giuridico? Cioè, quali norme questa criptoinvasione o subinvasione robotica, quali norme giuridiche va a modificare o in qualche modo cerca di scardinare dalle fondamenta? Di questi temi si è dibattuto durante la conferenza, gli ospiti erano tanti, proviamo a sentirne qualcuno sugli interventi che sono stati fatti durante la conferenza. Benvenuto Antonio Carnevale, lei è filosofo della politica presso il Sant'Anna di Pisa, lei ha dibattuto un po' sulla competizione tra uomo e macchina. È un fatto che già oggi è manifesto, però non tutti noi, insomma, abbiamo la consapevolezza di questa competizione tra l'uomo e la macchina. Sì, il mio contributo di filosofo guardava più alla competizione in sé e alle questioni etiche che la competizione uomo-macchina pone. Già il sol fatto che una tecnologia come quella robotica possa arrivare a mettere in competizione l'uomo con un suo prodotto. Ecco, già l'idea di pensare che ci possa essere una competizione tra l'uomo e qualcosa fuori di sé che adesso spesso ha prodotto, ammette delle questioni etiche, delle questioni che in qualche modo ci aprono a una riflessione, ci spingono a riflettere su questo rapporto. E su quali livelli? È un primo livello, è un livello direttamente legato alle conseguenze di introduzione delle macchine robotiche nella vita ordinaria. Ormai sono anni che i robot sono introdotti nella vita di tutti i giorni, prima a livello industriale, poi a livello domestico, e piano piano acquistano sempre più spazio all'interno delle sfere, di sfere importanti della nostra vita. Infatti le opportunità sembrano davvero tante e promettenti. Ovviamente, anche come diceva Pirni, ci sono anche degli aspetti più critici, quelli legati alle leggi, quelli legate a competizione che sfocia un po', ecco, poi nell'etica proprio di questo rapporto un po' conflittuale. Assolutamente sì, la questione che poi insomma ha mosso noi del Sant'Anna a scrivere questo progetto e a presentarlo alla comunità europea è proprio questo, cioè che nella robotica ci sono dei contenuti che sono critici e delle prospettive che potrebbero essere utili per l'umanità. Quindi la questione etica non è soltanto su come regolare i robot che oggi sono già a contatto con l'essere umano, però questo è un primo livello di riflessione etica, cioè le conseguenze immediate, ma ce n'è un successivo livello, cioè il robot non è semplicemente uno strumento tecnologico che può essere definito tecnicamente, il robot rappresenta per l'uomo qualcosa, il sogno di una perfezione, la possibilità di emanciparsi dalla fatica umana, la possibilità di liberarsi dal peso di alcune sue deficienze, di alcuni suoi limiti. Ecco, il robot, oltre a essere qualcosa, per l'uomo rappresenta qualcos'altro. Come andiamo a regolare l'introduzione delle macchine nella vita ordinaria? C'è una riflessione etica che investe l'intera società. Però lei, Carnevale, vede proprio un dato molto particolare che riguarda la competizione che a un certo momento, nel svolgere una certa funzione, viene a determinarsi tra l'uomo che potrebbe farla e il robot che pure lui potrebbe farla o la sta facendo. Sì, ce ne sono già in atto, ad esempio nei robot introdotti nella chirurgia, alcuni eticisti hanno una questione che andando verso un'eccessiva autonomizzazione dell'intervento chirurgico, questa tecnologizzazione dell'operazione potrebbe far perdere in sapere, in competenza ai medici. E quindi in qualche modo già si sono creati i presupposti di una competizione. Però io vorrei essere un po' realista, dico, spesso quando nuove tecnologie sono introdotte nella vita dell'uomo c'è una sorta di demonizzazione, c'è una paura diffusa, quindi in qualche modo quando andiamo a capire, a comprendere qual è l'effettivo livello di questa competizione, poi ci accorgiamo che effettivamente le cose stanno molto meno di come la gente poi tema, insomma. C'è uno sviluppo della robotica che deve preoccupare, ma c'è uno sviluppo ordinario, quotidiano della robotica che quotidianamente ci aiuta, ma non sostituisce l'uomo, non sostituisce ciò che l'uomo è nella sua bellezza e nei suoi limiti. Passiamo adesso a un altro dei relatori del convegno, il professor Kevin Warwick, docente di cibernetica all'Università di Reading. Buonasera Warwick. Buonasera. Nel vostro convegno voi date, perché è un convegno per addetti ai lavori, per acquisito il fatto che abbiamo dei robot, cominciamo ad avere dei robot, delle macchine che hanno un'intelligenza che non è fatta di circuiti, ma è fatta di materiale genetico, insomma, dei cervelli che possiamo incominciare a definire biologici. Ci dica a che punto siamo. Yes, what we do at the moment is take... Sì, quello che oggi facciamo è prendere cellule cerebrali, cellule vive, che recuperiamo da topi, ma anche da umani, e farle crescere in laboratorio dentro piccoli contenitori di vetro, all'interno dei quali però ci sono degli elettrodi molto piccoli. Facciamo crescere le cellule alla giusta temperatura all'interno di incubatori. E quello che accade è che le cellule finiscono per essere connesse una all'altra per via di questi elettrodi. Dopo una settimana siamo ancora in una fase di ricerca molto di base, ma quello che vediamo è che le cellule evolvono con il passare del tempo. Vediamo che le connessioni per via degli elettrodi si moltiplicano. Noi mettiamo queste cellule in piccoli robot e vediamo in che modo riusciamo a utilizzarle come circuiti per controllare appunto questi robot. Difatti, ci troviamo ad avere un sistema di controllo biologico di una macchina. La ragione principale alla base di queste ricerche è capire come un cervello si evolve e come riusciamo a mantenere a lungo una funzione di memoria. Questo ci dà indicazione anche per capire come agisce un cervello umano e un domani, probabilmente con l'uso di cellule staminali, sarà possibile curare le gravi forme di demenza, ad esempio. Ma naturalmente, tornando ai robot, quello che pensiamo di fare è aggiungere sempre più neuroni e gestire azioni sempre più complesse da parte della macchina. Per esempio, sviluppando molto la sua percezione dell'ambiente circostante, questo potrebbe darle una capacità di movimento ben più sofisticata di quella attuale. Naturalmente questa direzione di ricerca solleva questioni di non poco conto. E una delle principali sarà la seguente. Questi robot acquisiranno una forma di coscienza? Tuttavia, oggi, nei nostri esperimenti, arriviamo a gestire 30 milioni di cellule cerebrali, mentre in un cervello umano ne abbiamo 100 miliardi. Al momento, quindi, si tratta di situazioni che non sono assolutamente comparabili. E ora passiamo all'ultimo relatore che sentiamo di questo convegno che si è tenuto al Sant'Anna, Julian Nida Rumeling, che è filosofo dell'Università di Monaco. Benvenuto, professore, buonasera. Buonasera. Lei ha parlato della responsabilità sociale che noi dobbiamo avere nel gestire queste macchine, ma questa responsabilità verso le macchine deve essere diversa da quella che noi abbiamo invece nella nostra attività, nella nostra vita normale? Sì, il problema è che le criterie che usiamo per ascrivere responsabilità non cambiano, secondo me. Sono filosofo, ho lavorato molto sul concetto della responsabilità, ma l'azione dell'uomo diventa molto più complesso quando usa, per esempio, software per decidere, essendo medico, quale medicina si usa, o quando si usa un robot per aiutare anziani. Sì. Perché? Perché non è una relazione diretta tra un uomo e un altro, è una, diciamo, una relazione indiretta via un robot o un software o qualcos'altro. E per questo l'azione dell'uomo diventa molto più complesso e le responsabilità che ognuno ha che usa software o robot diventa anche più ampio. Ma lei crede però che invece le categorie di fondo che noi abbiamo oggi, che abbiamo avuto per tanto tempo nella responsabilità sociale, quelle non cambiano? Perché invece c'è chi dice che dobbiamo riscrivere tutto, no? Sì. Invece lei dice sì, esatto. No, non è questo il problema. No. Esatto, io penso che la filosofia, diciamo, il concetto umanistico, che sono sempre persone che hanno la responsabilità, che si deve avere, diciamo, una capacità di giudicare, di intenzionare, eccetera, eccetera, e questa capacità manca nel caso di un robot o un software. Allora un robot non può avere una vera e diretta responsabilità, è solo un mezzo, diciamo, un mezzo che cambia le criterie che usiamo per ascrivere responsabilità giuridica e anche etica, ma non cambia il concetto, non cambia l'idea di un'azione umana che, diciamo, risulta in una responsabilità speciale. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo scenario che abbiamo cercato di darvi sul convegno di Pisa. Salutiamo tutti i nostri ospiti, sono in tanti, non possiamo averli tutti al telefono. Voglio ricordare in conclusione che questo progetto Robolove, quindi che si interessa, un progetto europeo che si interessa dei rapporti fra legislazione e robotica, sviluppato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha anche vinto il recente World Technology Award, che è un premio Oscar della tecnologia. Ecco, ha vinto questo premio assegnato a New York proprio nella sezione legislazione. E adesso una pausa e state qui perché poi Mebius continua. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E qui con noi questa sera a Mebius Elena Cattaneo. Buonasera Cattaneo. Buonasera. Senatrice neoeletta con Carlo Rubbia, con Renzo Piano e anche con Claudio Abbado, ma questo probabilmente molti di voi lo sanno perfettamente. Elena Cattaneo, alla quale non so se dare del lei come senatrice, come ricercatrice, noi intervistiamo tanti ricercatori e ricercatrici, oppure del tu, perché sei molto impegnata in attività che riguardano la comunicazione. Negli ultimi tempi hai scritto parecchi articoli, anche alcuni molto vasti, sul Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore. procedo con il tu, se ti va bene. Va benissimo. Sei proprio in una via di mezzo tra la scienza e la comunicazione. C'è stato a Roma recentemente, un paio di settimane fa, un convegno dedicato alla comunicazione, al giornalismo scientifico, nel quale voi scienziati, particolarmente sensibili a queste cose, avete prodotto delle riflessioni. Anche Gilberto Corbellini, che è un personaggio che noi sentiamo spesso nella nostra trasmissione. Il concetto di fondo su cui vi siete mossi qual è? Il concetto di fondo è che c'è tanto da raccontare nella scienza. Mm-hmm. E tra l'altro è pure bello raccontarlo. Assolutamente. Però vi sembra che non sia fatto come dovrebbe essere fatto? Ma penso che oltre ai fatti della scienza, quindi oltre ai risultati, la cosa fenomenale, insomma, da divulgare, perché questo, insomma, rende conto delle tante dimensioni della scienza, è la storia, no? Quindi è il percorso, no? Quindi come fanno a venire, come sorgono le idee, come si razionalizzano, come si sperimentano, come si creano i gruppi, come si collabora con i competitori, come si coordinano gruppi che stanno in Europa, come si raccolgono dati, come si interpretano i dati, cioè è un'impresa veramente, dico sempre che la scienza è un'impresa conoscitiva organizzata che sfida l'ignoto in tutte le sue dimensioni. Sì. Di giorno. Però tu, mi sembra allora che sottolinei il fatto che, al di là di spiegare i fenomeni, al di là di spiegare le invenzioni quando si parla di tecnologia o le scoperte, bisognerebbe raccontare di più il backstage, insomma, come si fa scienza. Questa è forse una cosa che manca nell'informazione. È esattamente il punto, anche perché secondo me, facendo così, si capisce che, insomma, gli scienziati sono uomini e donne normali. Mm. Che soffrono, che fanno fatica per sopravvivere, che accettano il rischio del fallimento. Insomma, non è che tutte le idee sono buone, anzi, cioè, tu ti innamori delle tue idee, ma poi è il bancone di laboratorio che ti dice se sono giuste o no, e quando fallisci tu, cioè, sei una persona che, insomma, ha sviluppato non solo il modo per ideare cose laddove nessuno le aveva mai ideate, ma ti rendi anche conto, insomma, sei continuamente pervaso dal dubbio e dal rischio del fallimento. Ecco, questa amore per le tue idee e questa ferocia per le tue idee, poi, insomma, in laboratorio diventa qualcosa di fenomenale, perché tu hai giovani qui che veramente, io dico sempre, sviluppano il coraggio di perlustrare dove non era mai passato nessuno. Sì, penso che di essere assolutamente d'accordo, perché quello che può emergere quando si parla, appunto, di queste grandi scoperte, di tante nuove invenzioni, è che sia un lavoro così molto assolutamente splendido, e quindi questo è vero, questo lo è, però anche facile da fare, mentre invece c'è dietro una gran fatica, e questo non viene comunicato così facilmente. Ma la fatica di sviluppare un'idea che nessuno aveva mai pensato prima al mondo, non so se ci si rende conto di certo che cosa stiamo parlando. E poi l'altra cosa affascinante, insomma, se racconti la scienza, è che ti rendi conto che nella scienza non c'è solo scienza, ma c'è filosofia, sì, c'è diritto, c'è storia. Sì. No, per cui io non ho mai pensato alle due culture umanistiche e scientifica separate. Cioè, io mi sento, poi, insomma, c'è la società dentro la scienza e la scienza deve star dentro la società. C'è l'aspetto economico che sorregge la scienza e la scienza, no, sorregge il progresso di una nazione. Quindi c'è, se La scienza si accoppia praticamente con tutta l'attività che svolgiamo nel reale, indubbiamente. Però volevo andare a un punto che è più di attualità. Usciamo da una vicenda che certamente non è stato un granché per verificare qual è lo stato della cultura scientifica, per esempio di coloro che hanno responsabilità di governance, quindi stiamo parlando, appunto, di, per esempio, i politici, l'apparato decisionale politico, su questa vicenda, appunto, delle staminali, che ha dimostrato, a fronte di una proposta folle di una cura a base di acqua, che invece questa proposta stava, no, andando avanti. Lì io volevo proporti questa riflessione. Mi sembra che un errore che si faccia nella comunicazione scientifica, e qui possono farlo sia i comunicatori che gli scienziati, i ricercatori, è quello di non spiegare che cosa, quando proprio nasce il problema, che cosa c'è ai fondamenti. Tutta la vicenda delle staminali è diventata una polemica molto forte, e però per esempio con un certo ritardo, dopo un po' di mesi, si è incominciato a spiegare com'è il processo di verifica di un farmaco, no? L'ha fatto per esempio proprio bene Corbellini in un articolo sul Domenicale, però dopo 3-4 mesi. A volte bisognerebbe prestare attenzione all'origine delle cose, non entrare immediatamente trascinati dalla polemica. Può assolutamente essere che sia così. Devo dire che, insomma, lo scienziato può anche avere dei problemi a comunicare, perché insomma forse non è esattamente il suo lavoro, forse si deve abituare, forse è così innamorato dell'oggetto biologico che studia che non si rende conto, insomma, che farlo percepire ad altri, insomma, non è come studiarlo te stesso. Quindi insomma è probabile che ci siano problemi di comunicazione, ed è anche comunque vero che, insomma, in Italia la scienza, forse quello che desumiamo è che non si sa bene cosa sia. Quindi, e tu hai perfettamente ragione, occorre insomma continuare a spiegare, esatto, non tanto i risultati ma i perché a monte. I perché a monte, le origini. No, per esempio, in questa cosa nella quale tu sei molto impegnata negli ultimissimi tempi, direi proprio negli ultimissimi giorni, la legge sulla sperimentazione animale, mi sembra che ci sia partito uno scontro fortissimo tra chi fa ricerca e dice ma santo cielo, come facciamo a fare a meno di queste cose, e un certo indubbio fondamentalismo che vuole a tutti i costi preservare gli animali. Però per esempio non viene fuori il fatto che voi ricercatori, ma da tanto tempo, ogni volta che è possibile eliminare una ricerca sull'animale perché trovate dei sistemi più efficaci, lo fate, no? Però per esempio questa cosa non viene fuori, voi passate come delle persone che a priori non gliene importa nulla degli animali, ma non è così. No, non è così assolutamente. Forse di nuovo è talmente per noi abituale, come insomma tu hai sete, bevi un bicchiere d'acqua, no? È talmente normale che tu vuoi ridurre l'impiego di animali nella ricerca per tantissimi motivi, no? Uno, perché non sei esente, no, dal pensare che ovviamente sono animali, insomma sono esseri viventi, non hai nessun... c'è questa cosa della vivisezione, no? Questa idea assurda che si fa vivisezione, che è una parola che non esiste nei nostri laboratori e nel nostro DNA, no? Cioè di scienziati, no? C'è queste idee assurde, no? Quindi noi da una parte prestiamo massima attenzione al benessere degli animali che usiamo e procediamo con un impiego minimo che animali, è fortemente quello, diminuito, quello certo. ma sì, è enorme, ma anche perché noi che lavoriamo con gli animali siamo noi che sviluppiamo i metodi alternativi agli animali, certo. Ma sappiamo anche, sviluppando i metodi alternativi agli animali, che sono cellule in vitro piuttosto che sistemi in silico, che non sono alternativi a niente, quindi a noi certo. Insomma non è che le cose ce le possono raccontare così, no? Sì. Quindi non sono alternativi a niente, e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirli, questi sono i fatti, certo. Che dobbiamo dire, no? E insomma, noi meglio di tutti, insomma, siamo quelli che diciamo e sosteniamo che la sofferenza dell'animale non fa parte dei nostri protocolli, sì. E dei metodi di lavoro. Però è vero che appunto esce molto meno di quello che dovrebbe uscire. Ti chiedo un'ultima cosa in conclusione di questa chiacchierata. Stai aprendo lì in Senato uno sportello per gli operatori politici per cercare di dare a loro un'assistenza costante sui temi scientifici? Ah sì, no, è interessante questo nome sportello, lo chiamerei laboratorio, laboratorio. Perché è più nel mio ambito. È un laboratorio senza cellule, senza topolini, sarà un gruppo di giovani con expertise in ambito di storia della medicina, di filosofia della scienza, in ambito legislativo, che devono aiutare quell'ufficio, quindi me, lavorando insieme, a raccogliere argomenti dalla comunità scientifica, quindi io non mi sento sola in Senato, sono lì con la comunità scientifica, quindi a raccogliere gli argomenti e a costruirli e a metterli a disposizione dei decisori politici. Quindi l'idea del laboratorio è proprio questa, quindi di aiutare il Senato e questo Paese a prendere delle decisioni sulla base di fatti e quindi di documentazione e quindi decisioni informate, di modo che insomma se uno vuole bocciare la sperimentazione animale sappia che cosa significa e quali sono le conseguenze. Io penso che le conseguenze non siano ben chiare, oltre a non essere chiaro che nessuno in Italia fa vivisezione. Tanti auguri per questo lavoro importante, lo seguiremo. Grazie mille ancora. Torniamo sulle strade con le informazioni dal traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. No, parliamone pure perché è di attualità, però l'abbinata è micidiale, ragni e banane. Sì, sembra un piatto... Ecco, esatto, tremendo, da rito voodoo, non lo so. No, un piatto asiatico che va per la maggiore... Sì, degenerato. No, ecco. No, in realtà non è così, anzi è un caso di attualità, abbastanza che ha fatto abbastanza scalpore, soprattutto nel Regno Unito. Adesso lo raccontiamo bene. Comunque, raccontiamo in realtà dei ragni delle banane. Dei ragni delle banane, che è ancora peggio, vuol dire che c'è proprio una vuol dire che c'è proprio un attaccamento intima. Ecco. Allora lo facciamo con quello che è il nostro aracnologo di fiducia, che però è anche un collega che lavora in Rai e conduce Geo. Diamo il benvenuto a Emanuele Biggi. Ciao Emanuele, bentornato. Ciao a tutti, ciao a tutti gli amici di Mebius, ciao. Allora dobbiamo raccontarla bene questa storia, innanzitutto diamo un po' di fatto di cronaca, insomma. Nei pressi di Londra una donna in casa sua ha portato a casa un casco di banane. La sua famiglia era composta da lei, il marito e i due figli, e si sono accorti che ad un certo punto questo casco di banane era abitato, se vogliamo dire così. E si è urlato un po' allo scandalo, soprattutto nei media britannici. Perché? Perché sembrerebbe che queste fossero i piccoli del ragno più velenoso del mondo. Allora, cosa abbiamo detto? Chiamiamo Emanuele e capiamo un pochino la portata di questa notizia. Ma perché è stata fatta subito la connessione banane con quel tipo di ragno? Con quel tipo di ragno, perché è un ragno piuttosto particolare che vive in determinate situazioni. Emanuele, dacci un po' di coordinate più corrette. Sempre sai, a me piacciono i ragni, quindi darò delle bad news, delle cattive notizie, delle good news, no? Delle buone notizie riguardo a questi ragni. Innanzitutto riguardo al fatto che cronaca è un fatto vero, cioè è stato trovato effettivamente questo caschetto di banane in cui c'era questa infestazione, è stata chiamata infestazione di ragnetti, no? Allora sì. Cosa succede in pratica? È stato determinato, intanto hanno detto subito che si trattava di foneutria, quindi del ragno cosiddetto delle banane. In realtà innanzitutto questi ragni appartengono a una famiglia che hanno tutti un po' quel tipo di riproduzione con questo piccolo visacco che attaccano in giro e poi da cui escono tanti piccoli ragnetti. Sembra un po' una ragnatela a vederla. È un sacchettino bianco, molto morbido di solito, e che contiene le uova e le protegge, ed è il motivo per cui questi ragni probabilmente hanno resistito tutte la trafila di lavaggi e controlli che vengono fatti comunque sempre dalle compagnie che lavorano con banane bio, no? Quindi non trattate con pesticidi e quindi che permettono la sopravvivenza di molti animali, tra cui anche questi ragni. Quello che però non è stato praticamente mai detto, perché sapete la cronaca spesso lavora su quello che fa notizia, questo, no? Questo era un po' il fatto scandalistico, ecco, che ha fatto notizia. Cioè, questo chiaramente ha fatto scalpore, perché poi questa ragazza, poi è una ragazza giovane di 29 anni, si è trovata a paura perché c'è stato questa invasione di piccoli ragnetti. Allora, in casa, tremendo. Innanzitutto quello che è pericoloso è il morso del ragno adulto. Ok, quindi doveva trovare per farsi veramente, per avere veramente paura, doveva trovare un ragno adulto. che cosa però che non può succedere perché vengono lavate i caschi di banana, eccetera, quindi il ragno viene spazzato via facilmente. Ecco, invece queste sorte di ragnatele dove loro depongono i piccoli non vengono spazzate via. Sì, esattamente, normalmente vengono asportati manualmente, però probabilmente non l'hanno visti proprio, cioè non è stato visto, ma è molto rara questa cosa perché ci sono proprio dei meccanismi perché prevedono che di solito questo non accada. Quasi. Ecco, ma scusa, non vorrei che il tuo amore per i ragni ti porti ad essere un po' a nascondere i fatti, però questo ragno pericolosissimo, lui ha un particolare amore per le banane? Guarda, non è proprio un amore per le banane quanto il fatto che purtroppo, ahimè, i bananetti sostituiscono quello che è il suo habitat primario, che è la foresta primaria amazzonica, comunque del Sud America. Quello che succede è che questi ragni sono degli opportunisti, per cui riescono comunque, non facendo ragnatele particolari, non avendo bisogno di un particolare albero su cui vivere, riescono a si mettono anche qua i bananeti. Ah, ok, cioè loro riescono a stare anche lì, non è che sono solo lì, sono anche lì. E allora, per cui riescono comunque a mangiare qualche insetto che trovano comunque. E quindi questo casco è arrivato con su questa famiglia. Sì. Questa famiglia che, vi dico, allora, innanzitutto i piccolini non sono pericolosi per l'uomo. Sono innocui. Sono innocui perché prima di tutto sono troppo piccoli per poter bucare o iniettare una quantità di veleno che potrebbe mai sortire qualsiasi tipo di effetto, anche solo allergico, su qualsiasi tipo di persona. Però la signora Consi Taylor non poteva saperlo, diciamo. Non poteva saperlo, esattamente. Infatti quello che ha accettato Scalpore è quello. Ecco. Lo diciamo ora, in modo che non per caso capitasse. Ecco, cominciamo a tranquillizzare allora. E poi comunque sono ragni che vivono ai tropici, con una alta percentuale di umidità. Nelle nostre case, soprattutto nelle case londinesi, questo non c'è. E quindi questi ragnetti sarebbero comunque morti di disidratazione, scusate lo scioglilingua, in pochissimo tempo. Quindi non c'era nessun problema. Caso diverso nel caso fosse trattato di un ragno adulto, per cui bisogna stare molto attenti, è un ragno comunque che avverte prima di mordere, fa delle parate assurde, sbandiera le gambe gialle e nere, eccetera, eccetera. No, aspetta, quindi... aspetta, entra nel dettaglio, scusa. Fa delle parate assurde, cioè ti avvisa, guarda che ti sto mordendo. E quindi cosa fa? Tira sulle zampe? Sì, perché gli animali sbandirano, cioè non vogliono sprecare il loro veleno, sono un po' dei genovesi della natura, no? Io sono genovese, lo posso dire. Quindi non vogliono sprecare le loro risorse, perché gli servono per mangiare. Quindi, lo so, però chi è che conosce le danze aggressive dei ragni? Un attimo, se tu vedi un semaforo rosso o giallo, normalmente sai che comunque sarebbe meglio fermarsi, no? Tendenzialmente. Sì. Quindi... se tu vedi un animale che si erge sulle zampe e ha delle colorazioni accese, istintivamente anche tu, uomus della società occidentale europea, le feste, ecco, non ti dice, un dubbio ti viene. Abbracciami, ecco. Ma vabbè, esatto, bravi. Non è una voglia di abbracciarti, ma è un'attenzione, guarda, che mi sto facendo vedere. Tutti i ragni po' pericolosi tutti. Lo fanno, vedi? Allora. Non tutti, comunque molti, la maggior parte tende a scappare. Questo è un ragno tendenzialmente aggressivo perché in natura ha a che fare con animali aggressivi, quindi deve farsi vedere, no? E ha un veleno molto potente che effettivamente ha avuto, soprattutto in passato, quando non c'era un antiveleno in Sud America, dei casi di morte, dei decessi, ha dei sintomi molto gravi. Non è il più velenoso al mondo in assoluto, poi sapete che ci sono anche le dose, tutte queste cose qua, però comunque è uno fra i più velenosi, più pericolosi. Attualmente c'è un antidoto, quindi non si sono più registrati da un po' di tempo casi di decesso assolutamente per questo ragno, e comunque l'antiveleno viene somministrato solo nel 2% circa dei casi. Quindi non dobbiamo, nessuno deve pensare che le banane normalmente hanno a che fare con questo ragno. È stata una coincidenza. Assolutamente no. Ah, io purtroppo ho degli amici aracnologi che sono giorni che mangiano solo banane sperando di trovare questi ragni qua in Italia, ma vabbè. A parte... non ci riesco. Vabbè, ma voi siete un po' così, ecco, un po' degenerati. Scherzi a parte, non è esageratissima questa cosa. È più probabile che un aereo ci entri nella vasca da bagno mentre ci laviamo piuttosto che troviamo una foneutra nel nostro Una probabilità assolutamente remota. Infatti, cosa è successo poi in Inghilterra? Questa famiglia è stata risarcita dal supermercato, è stata fatta la disinfestazione, tutto è tornato regolare. Ecco, quindi talmente un caso eccezionale che appunto il supermercato ha sostenuto le spese di disinfestazione. Quindi tutti contenti. Bene, finisce bene. Vogliamo, Emanuele, Emanuele, ripetere forse il nome, la specie, per chi si fosse incuriosito, vuole andare a vedersi su internet qualche informazione in più. Dicevi Foneutria? Allora, Foneutria col PH, sapete, il classico PH, latino. La latina Foneutria. Quella che è la più classica, di quella di cui si trovano più informazioni, è la specie Nigriventer. Nigriventer. È quella proprio brasiliana. Va bene, quindi possiamo stare tranquilli. Se vi interessano questi argomenti, faccio una marchettona, perché dal 6 dicembre, anzi dal 7 dicembre, inizia una mostra a Genova che si intitola Zanne, corazze e veleni e parla anche proprio delle strategie di attacco e difesa dei piccoli animali, tra cui anche le foneutre e altri ragni. Ah, allora va bene, magari ne riparleremo senz'altro. Grazie mille a voi, ragazzi. Ciao. Buon lavoro, ciao, presto. Buon lavoro, ciao, ciao. Möbius finisce qui, ma la domanda della prossima settimana, Chiara, è... Vuoi anticiparlo a tutti i costi? Va bene, parleremo di Fakiri, la fisica del buttafuoco, del mangiafuoco, del mangiaspade e del mangiavetro. Ecco, buona settimana a tutti e a tutte. Ciao!